Fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontarvi. E buonasera ragazzi, noi siamo in diretta con Resto Radio Convento e sono in compagnia di due bellissimi amici. Come vi chiamate? Matteo, Alessandro. Alessandro e Matteo, scommetto che siete gli amici di Alessio. Esattamente. Allora, io sono curiosa di sapere cosa gli avete combinato ad Alessio. L'avete portato solo qui o da stamattina siete ancora in giro? Allora, questa mattina abbiamo avuto il piacere di fargli fare il canyoning. Che cos'è? Non lo so, scusami. Allora, canyoning in realtà è qualcosa che noi sconoscevamo. Sì, in realtà dovevamo fare kayak. Esattamente. Poi esatto. La nostra guida si è fatta male. Siamo stati così fortunati che la nostra guida si è rotta una costa e a quanto pare è strappato un muscolo, quindi non sappiamo bene. Avete dovuto cambiare programma. Esatto. Quindi niente, fondamentalmente consiste nel lanciarsi in cascate. Ma in realtà è un percorso montano, esatto, tra esatto, i fiumi. Esatto. E poi la cosa più forte, diciamo, tra tutte queste è lanciarsi praticamente dentro queste cascate a più di 5-6 metri di altezza. Mamma mia, è stata la ma dove l'avete fatta questa cosa? Allora, eravamo vicini al lago di Dedro, credo. Sai che non me lo ricordo. Sì, comunque un'oretta e mezza da qua. Sì. Bello, non l'avevo mai sentito. Sì. Allora, molto nessuno molto ha avuto bello. Paura consiglio, di tuffarsi. Nessuno ha avuto. Allora. Io avrei avuto paura. Allora, io soffro di vertigini, quindi è stato traumatico la prima discesa con la corda. Immagino. Perché io non mi sono tuffato, ho fatto solo la discesa con la corda. Ah, ed è stato. Già da lì si sentiva una forte sensazione, figurati quando ti ci tuffi. Esatto, bellissimo. Esatto. Cioè, io che amo l'adrenalina, secondo me lì ti diverte da morire. Sì, sì. È stato veramente molto piacevole, molto godibile. E lo sposo si è divertito. E lo sposo. Ho avuto paura. Allora, devo dire che ho avuto la netta sensazione che fino a metà percorso. Ok, nel senso, molto piacevole, molto divertito. Dopo la prima metà, effettivamente lo guardavo. Non aveva proprio lo sguardo compiaciuto, quindi ho detto, non so, no, vabbè, se devo fare, lo faccio. Forse era stanchezza, considerando le 3 ore e mezza di sonno. Stasera sonda, finisce o avete programmato qualche altra cosa? Stasera finisce qua, sì. Ah, ok. Da Reggio Emilia? No, da Modena. Modena. Sì, sì. Precisamente Sassuolo. Modena-Sassuolo. Sì. Sassuolo, città okay. Delle piastrelle, lo ricordiamo, eh. Gli amici ci tengono, delle piastrelle. Se avete bisogno di piastrelle, andate a Sassuolo. Provincia di Manto, di Modena. Sono attenti, siamo molto attenti. Allora diciamo che siete proprio originari, quindi ci tenete. Esattamente, è giusto. Io come ci tengo nella mia terra, non vieni. Io campana sono. Ah, perfetto. Provincia di Napoli. Beh, allora, quindi ognuno festeggiato, ci tiene. Dobbiamo ancora finire di festeggiare. Il 4 giugno festeggiamo alla grande. Cosa ti fate, ragazzi? Ma in realtà lui niente. Allora, se dobbiamo essere no, onesti, io nessuno... milanista. Esatto, io in realtà lo seguo. Sono anch'io non le guardo le partite. Però io se devo festeggiare, tifare, tifo per la mia squadra, il Napoli. Beh, certo, per forza. Cioè, quella per è la cosa. Quindi tu non perché sei... tifi Milan? Che sei qua? Cosa c'entra il Milan? Vabbè. Come guarda, che anche da noi ci sono i napoletani che sono juventini. Allora. Io quelli non li concepisco proprio. Allora, no, il Sassuolo l'ho tifato per tutta la Serie B fino a quando non è arrivato in A. Dopo in A non sono andato era più a vedere le partite. Era diventato noioso. Era cioè, adesso che era in A era troppo noioso. Era troppo mainstream. Ho capito. Va bene, ragazzi. Io vi lascio proseguire la serata. Buon divertimento. Grazie. Alla prossima, allora. Grazie ragazzi. Grazie. Ciao.